Will si offrì di andare ad avvertire Mr. Brooke, che arrivò quasi subito e disse che sarebbe salito sulla carrozza per andare con Dorothea fino a casa di Dagley, per parlargli del piccolo furfante che era stato colto con il leprotto. Lungo la strada, Dorothea tornò sull'argomento della tenuta, ma Mr. Brooke, non essendo preso alla sprovvista, tenne le redini del colloquio. Cetta, ma ecco, ribatté, trova da ridire su di me, cara. Ma io non proteggerei la mia selvaggina se non fosse per Chatham, e lui non può dire che quella spesa è per gli affittuari, capisci? È un po' contrario al mio modo di sentire, il bracconaggio, ecco, se ci pensi bene. Ho spesso pensato di studiare l'argomento. Non molto tempo fa, Flaywell, il predicatore metodista, è stato processato per aver abbattuto una lepre che gli aveva attraversato la strada quando lui e la moglie stavano passeggiando insieme. Lui è stato assai lesto e le ha dato un pugno sul collo. Una cosa assai brutale, mi pare, disse Dorothea. Beh, ecco, mi è sembrato piuttosto brutta, lo confesso, per un predicatore metodista, sai. E Johnson ha detto: potete giudicare che ipocrisia sia. E parola mia, ho pensato che Flaywell assomigliasse ben poco al tipo più elevato di uomo. Come qualcuno definisce il cristiano Young, il poeta Young, credo. Conosci Young? Beh, ecco, Flaywell con le ghette nere fruste, che si definiva dicendo di aver pensato che il Signore avesse mandato a lui e a sua moglie una bella cenetta e che aveva il diritto di atterrarla con un pugno, anche se non era un gran cacciatore agli occhi del Signore, come Nembrotte, ti assicuro che era abbastanza comico. Fielding ne avrebbe ricavato qualcosa, o Scott ai nostri giorni. Scott avrebbe potuto sviluppare l'episodio. Ma sul serio, quando ci ho pensato, non ho potuto fare a meno di compiacermi all'idea che il poveraccio avesse un po' di lepre su cui recitare la preghiera di ringraziamento. È tutta una questione di pregiudizi, pregiudizi sostenuti dalla legge, capisci? Sul bastone le ghette e così via. Tuttavia non serve ragionare sulle cose, e la legge è la legge. Ma sono riuscita a calmare Johnson e ho messo la cosa a tacere. Dubito che Chatham non sarebbe stato più severo. Eppure mi rimprovera come se fossi l'uomo più crudele della contea. Ma eccoci arrivati da Dangley. Mr. Brooke scese al cancello dell'aia e Dorothea proseguì. È stupefacente pensare quanto più brutte sembrino le cose quando abbiamo il solo sospetto di venire rimproverati. Anche le nostre persone allo specchio tendono a cambiare aspetto ai nostri occhi dopo che abbiamo udito qualche franca osservazione sui loro tratti meno ammirevoli. E d'altro canto è sorprendente con quale piacere la coscienza apprenda le nostre violazioni dei diritti di coloro che non si lamentano mai o che non hanno nessuno che si lamenti per loro. La dimora di Dangley non era mai apparsa così deprimente a Mr. Brooke come quel giorno, con la mente così ferita dalle critiche del Trumpet echeggiate da Sir James. È vero che un osservatore sotto l'influsso mitigatore delle belle arti, che rende le sofferenze degli altri pittoresche, si sarebbe deliziato di questa casa chiamata Freeman's Hand. La vecchia dimora aveva degli abbaini nel tetto rosso scuro, due dei camini erano soffocati dall'edera, l'ampio portico era bloccato da fastelli di bastoni e metà delle finestre erano chiuse da persiane grigie tarlate, attorno alle quali i rami di gelsomino crescevano con sfrenato rigoglio. Il muro del giardino, coperto di muffa, con dei malvoni che si affacciavano al di sopra di esso, era uno studio perfetto di colori tenui, assai misti. E c'era una vecchia capra, tenuta senza dubbio per interessanti motivi superstiziosi, sdraiata contro la porta aperta della cucina sul retro. Il tetto muschioso di paglia della stalla, le porte grigie in rovina del granaio, i braccianti poveri con pantaloni stracciati che avevano quasi finito di scaricarne il granaio un carro di grano, pronto per una trebbiatura per coce, le scarse mucche che venivano messe alle cavezze per essere munte e che lasciavano metà della stalla in un vuoto scuro. Gli stessi maiali e le anatre bianche che sembravano vagare qua e là per l'aia ineguale e negletta come se fossero addolorati perché nutriti di una qualità troppo povera di risciacquature. Tutti questi dettagli sotto la luce tranquilla di un cielo marezzato da alte nubi avrebbe costituito una sorta di quadro davanti al quale tutti ci siamo soffermati come davanti a un pezzo incantevole, che tocca corde diverse da quelle che sono mosse dalla crisi dell'agricoltura, con la triste mancanza di capitali agricoli, come si vedeva costantemente sui giornali del tempo. Ma queste imbarazzanti associazioni mentali erano proprio in quel momento assai presenti a Mr. Brooke e gli rovinavano la scena. Lo stesso Mr. Dagley era una figura che si inseriva nel paesaggio, con un forcone e un cappello per mungere, un vecchissimo berretto di castoro appuntito sul davanti. La giacca e i pantaloni erano i migliori che aveva e non li avrebbe avuti indosso in questo giorno feriale se non si fosse recato al mercato, tornando più tardi del consueto dopo essersi concesso il raro piacere di una cena alla tavola pubblica del Bluebell. Come fosse arrivato a darsi a questo sperpero, forse sarebbe stato motivo di stupore per lui stesso l'indomani. Ma prima di cenare gli era parso che qualcosa sullo stato della nazione, una lieve pausa del raccolto prima che i Far Dips avessero finito la mietitura, le storie sul nuovo re e i numerosi manifesti sui muri lo autorizzassero a un po' di sventatezza. Era una massima, Middlemarch, e considerata ovvia, che una buona carne dovrebbe essere bene annaffiata, cosa quest'ultima che Dagle interpretò come una gran quantità di birra da tavola seguita da un rum annacquato. C'è tanta verità in queste bevande che non furono abbastanza false da far sembrare allegro il povero Dagley, resero solo il suo malumore meno muto del consueto. Si era imbevuto troppo anche di confuse discussioni politiche, uno stimolante pericolosamente molesto al suo conservatorismo agricolo, che consisteva nel sostenere che qualunque cosa è cattiva e qualsiasi cambiamento è probabile che sia peggiore. Aveva il volto acceso e i suoi occhi avevano uno sguardo decisamente litigioso mentre se ne stava ritto e fermo, stringendo il forcone, intanto che il padrone si avvicinava con la sua tranquilla andatura strascicata, una mano nella tasca dei pantaloni e l'altra che faceva ruotare un sottile bastone da passeggio. Dagley, mio buon amico, cominciò Mr. Brooke, consapevole di essere assai ben disposto verso il ragazzo. Oh già, sono un buon amico, davvero? Grazie, signore, grazie, disse Dangle con una sonora ringhiosa ironia che fece alzare dalla sua coccia Fag, il cane da pastore, e gli fece rizzare le orecchie. Ma vedendo entrare nell'aia Monk, dopo che si era aggirato un po', Fag si sedette di nuovo in atteggiamento di osservatore. Sono contento di sentire che sono un buon amico. Mr. Brooke riflette che era un giorno di mercato e che il suo degno affittuario aveva probabilmente cenato. Ma non vide alcun motivo per non continuare, dato che poteva prendere la precauzione di ripetere a Mrs. Dagley ciò che doveva dire. Il vostro piccolo Jacob è stato sorpreso ad uccidere un leprotto, Dagley. Ho detto a Johnson di rinchiuderlo nella stalla vuota per un paio d'ore, giusto per mettergli un po' di paura addosso, capite? Ma vi sarà portato a casa fra poco, prima di notte, e voi vi limiterete a tenerlo d'occhio. Non è vero? E a dargli una lezione, capite? No, non lo farò. Che caschi morto se frusco il mio ragazzo per fare un piacere a voi o a chiunque altro, neppure se foste 20 padroni invece di uno e il ragazzo fosse per giunta cattivo. Le parole di Dagley furono abbastanza forti per richiamare la moglie alla porta della cucina sul retro, l'unica entrata sempre usata e sempre aperta, tranne col maltempo, e Mr. Brooke dicendo in tono tranquillizzante. Bene, parlerò con vostra moglie. Non intendevo dire che lo picchiaste, si voltò per dirigersi verso la casa. Ma Dagley, soltanto più deciso a dire la sua a un gentiluomo che si allontanava da lui, lo seguì subito, con Fag, che gli si strascicava alle calcagne e scontrosamente evitava qualche lieve e probabilmente caritatevole approccio da parte di Monk. Buongiorno, Mrs. Dagley, disse Mr. Brooke affrettandosi un po'. Sono venuto per il vostro ragazzo. Non voglio che lo bastoniate, capite? Questa volta fece attenzione a parlare del tutto chiaro. La sfinita Mrs. Dagley, una donna magra, esaurita, dalla cui vita il piacere era svanito in misura così totale che non aveva neppure i vestiti della domenica che le avrebbero potuto dare una soddisfazione nel prepararsi per andare in chiesa, aveva già avuto un malinteso col marito da quando questa era arrivata a casa ed era abbattuta e si aspettava il peggio. Ma il marito fu più lesto a rispondere. No! Non gli darò il bastone, che vogliate o no, proseguì Dagley, cacciando fuori la voce, come se volesse colpire forte. Non avete il diritto di venire a parlare di bastoni in questi luoghi, dal momento che non darete un legno per le riparazioni. Andatemi del marcio a chiedere della vostra reputazione. Faresti molto meglio a tenere la lingua in bocca, Dagley, disse la moglie, e a non ribaltare la mangiatoia. Quando un uomo che è un padre di famiglia è andato a spendere dei soldi al mercato e si è abbruttito ancora di più col bere, ha fatto abbastanza guai per una giornata. Ma vorrei sapere cosa ha fatto il mio ragazzo, signore. Non importa cosa ha fatto, disse Dagley con maggiore violenza. È affar mio parlare e non tuo. E parlerò anche. Dirò la mia, cena o non cena. E quello che dico è che vivo sulle vostre terre come mio padre e mio nonno prima di me. e ci ho buttato i nostri soldi dentro, e io e i miei figli potremmo cadere e marcire per terra come concime, perché non possiamo trovare i soldi per comprarlo, se il re non ci dovesse mettere fine. Mio buon amico, siete ubriaco, sapete? Disse Mr. Brooke con tono confidenziale, ma non per rimproverarlo. Un altro giorno, aggiunse voltandosi come per andarsene. Ma Dudley immediatamente gli si mise di fronte. E Fag alle sue calcagne emise un sordo brontolio mentre il tono della voce del padrone aumentava e anche Monk si avvicinò, stando allerta in modo muto e dignitoso. I braccianti sul carro interruppero il lavoro per ascoltare e parve loro più saggio restare del tutto passivi piuttosto che tentare una fuga ridicola, inseguiti da un uomo berciante. Non sono più ubriaco di voi, e neppure tanto, disse Dudley. Posso sopportare i liquori e so cosa voglio dire. E voglio dire che il re ci metterà una fine a tutto questo, perché lo dicono quelli che lo sanno, quelli che ci deve essere una riforma. E i padroni che non hanno trattato bene gli affittuari saranno trattati in modo tale che dovranno scappare in fretta. E ci sono quelli a Middlemarch che sanno che cos'è la riforma e sanno chi dovrà scappare. Dicono: io lo so chi è il tuo padrone. E io dico: spero che voi stiate meglio per averlo conosciuto. Io no, dicono loro. È un tipo taccagno. Già, già, dico io, lui è per la riforma, dicono loro. Ecco cosa dicono. E ho scoperto che cos'era la riforma. E sarebbe mandare voi e i vostri simili via a gambe levate. E anche con cosine dall'odore piuttosto forte. E adesso potete fare come vi pare, perché di voi non ho nessuna paura. E sarà meglio che lasciate stare mio figlio e badate a voi prima che la riforma vi sia alle spalle. Ecco cosa avevo da dire, concluse Mr. Dudley, infilzando il forcone nel terreno con una fermezza che si dimostrò scomoda quando cercò di tirarlo fuori di nuovo. A quest'ultimo gesto, Monk cominciò ad abbaiare sonoramente e fu il momento che Mr. Brooke se la desse a gambe. Uscì dall'aia il più rapidamente che poté, un po' sbalordito per la novità della sua situazione. In precedenza non era mai stato insultato sulle proprie terre ed era incline a considerarsi bene amato da tutti. Siamo tutti portati a fare così quando pensiamo alla nostra amabilità piuttosto che a quello che gli altri probabilmente vogliono da noi. Quando avevo litigato con Caleb Garth 12 anni prima, aveva pensato che gli affittuari sarebbero stati contenti che il padrone prendesse tutto nelle proprie mani. Qualcuno che segue la narrazione di questa esperienza potrà meravigliarsi dell'ignoranza spaventosa di Mr. Dudley, ma a quei tempi nulla era più normale per un agricoltore della sua categoria dell'essere ignorante. E questo nonostante un pastore nella parrocchia gemella, che era un gentiluomo fino all'osso, un curato più vicino che predicava con maggiore dottrina del pastore, un padrone che aveva studiato di tutto, soprattutto le belle arti e il miglioramento sociale, e tutte le grandi menti di Middlemarch, a solo 3 miglia di distanza. Quanto alla facilità con cui i mortali sfuggono al sapere, prendete un'intelligenza media nello splendore intellettuale di Londra e considerate cosa sarebbe stata quella persona adatta ad essere invitata a un pranzo se avesse appreso una scarsa capacità nell'addizionare da sagrestano di Tipton e avesse letto con immensa difficoltà un capitolo della Bibbia perché nomi come Isaia o Apollo riusciva a maneggiarli male dopo averli compitati un paio di volte. Il povero Dudley leggeva un po' di poesia qualche volta la domenica sera e per lui il mondo non era per nulla più oscuro di quanto fosse stato prima. Alcune cose le sapeva benissimo, e cioè le sciatte abitudini dell'agricoltura e l'avversità del tempo, il bestiame ai raccolti, a Freeman's Hand, evidentemente così chiamato per sarcasmo, a sottintendere che uno era libero di andarsene se voleva, ma che per lui non c'era alcun al di là terreno a cui potesse accedere. Capitolo 40. Nell'osservare gli effetti, anche solo di una batteria elettrica, è spesso necessario cambiare posizione ed esaminare un insieme o un gruppo particolare a una certa distanza dal punto in cui è stato avviato il movimento in cui siamo interessati. Il gruppo verso cui mi sto muovendo è al tavolo da colazione, a casa di Caleb Garth, nello spazioso salotto in cui si trovano le mappe e la scrivania. Padre, madre, e 5 figli. Mary ora si trovava a casa in attesa di trovare un lavoro, mentre Christy, il giovane nato dopo di lei, stava acquisendo un sapere misero con un misero vitto in Scozia, essendosi con delusione del padre dedicato ai libri invece che alla sacra vocazione degli affari. Le lettere erano arrivate, 9 lettere costose, per cui il postino aveva riscosso 3 scellini e 2 soldi. E Mr. Garth stava dimenticando tè e pane tostato mentre leggeva le sue lettere e le disponeva aperte una sopra l'altra, talvolta scuotendo lentamente il capo, talvolta storcendo la bocca e riflettendo in cuor suo, ma non dimenticando di staccare senza romperlo un grande sigillo rosso che Letty gli strappò via come un tè bramoso. La conversazione fra gli altri proseguiva senza inibizioni, perché nulla disturbava il profondo interesse di Caleb, tranne scuotere il tavolo quando stava scrivendo. Due delle 9 lettere erano state per Mary. Dopo averle lette, le aveva passate alla madre e si era seduta a giocherellare distratta col suo cucchiaino, finché improvvisamente ricompostasi non tornò al proprio cucito che aveva tenuto in grembo durante la colazione. Oh, non cucire, Mary! Disse Ben, tirandole giù il braccio. Fammi un pavone con questa mollica di pane. Ne aveva impastata una piccola massa allo scopo. No, no, Monello, fece Mary bonaria al pungersi leggermente la mano col lago. Cerca di modellartelo tu da solo. Ne hai visto farlo abbastanza spesso. Devo finire questo lavoro di cucito e per Rosamond Vincy. Si deve sposare la prossima settimana e non si può sposare senza il suo fazzoletto. Mary concluse allegramente, divertita da quest'ultima idea. Perché non può Mary? Disse Letty, seriamente interessata a questo mistero e spingendo la testa così vicino alla sorella che ora Mary rivolse l'ago minaccioso verso il naso di Letty. Perché questo fa parte di una dozzina e senza di questo ce ne sarebbero solo 11. Mary spiegò con aria grave, così che Letty si tirò indietro con la sensazione di sapere qualcosa. Hai deciso, cara? Chiese Mrs. Garth, posando le lettere. Andrò alla scuola di York, disse Mary. Sono più adatta a insegnare in una scuola che in una famiglia. Mi piace di più insegnare a delle classi. E vedete, devo insegnare, non c'è nient'altro da fare. L'insegnamento mi sembra la cosa più piacevole del mondo, disse Mrs. Garth con una punta di rimprovero nella voce. Potrei capire che non ti andasse se non avessi sufficienti cognizioni, Mary, o non ti piacessero i bambini. Credo che non capiremo mai perché a uno non va ciò che a un altro piace, mamma. Disse Mary in un tono piuttosto brusco. Non vado pazza per un'aula, mi piace di più il mondo esterno. È un mio difetto, molto fastidioso. Deve essere molto stupido stare sempre in una scuola di ragazze, disse Alfred, una tale accozzaglia di sempliciotte come le allieve di Mrs. Ballard che camminano a due per due. E non hanno dei giochi che valgano la pena, disse Jim. Non sanno né tirare i sassi né saltare. Non mi meraviglio che a Mary non piaccia. Cos'è che a Mary non piace? Disse il padre alzando gli occhi al di sopra degli occhiali e fermandosi sul punto di aprire l'altra lettera. Stare fra un branco di ragazze sempliciotte, disse Alfred. È il posto di cui avevi sentito parlare, Mary? Chiese Caleb con gentilezza guardando la figlia. Sì, padre, la scuola York. Ho deciso di prenderla. È assolutamente la migliore. 35 sterline all'anno e paga extra per insegnare a suonare il piano a delle strimpellatrici più piccole. Povera bambina. Se stesse a casa con noi, Susan? Disse Caleb, guardando la moglie con aria malinconica. Mary non sarebbe felice se non facesse il suo dovere, disse Mrs. Garth in tono solenne, consapevole di aver fatto il proprio. A me non renderebbe felice fare un dovere schifoso come quello, disse Alfred, al che Mary e il padre risero silenziosamente, ma Mrs. Garth disse con aria grave. Ti prego di trovare una parola più adatta di schifoso, mio caro Alfred. Per tutto quello che pensi sia sgradevole. E supponiamo che Mary ti potesse aiutare ad andare da Mr. Hanmer con i soldi che guadagnerà? A me sembra una gran vergogna. Ma lei è una vecchia pasta, disse Alfred alzandosi dalla sedia e tirando a Mary la testa all'indietro per baciarla. Mary arrossì e rise, ma non riuscì a nascondere che le stavano spuntando le lacrime. Caleb, guardando al di sopra degli occhiali, con gli angoli delle sopracciglia all'insù, aveva nell'espressione un misto di gioia e di tristezza mentre si accingeva ad aprire la sua lettera, e persino Mrs. Garth, le labbra incurvate da una tranquilla gioia, lasciò passare quell'espressione impropria senza correggerla, sebbene Ben la raccogliesse immediatamente e cantasse. Lei è una vecchia pasta, vecchia pasta, vecchia pasta, con un ritmo cantilenante che scandiva col pugno sul braccio di Mary. Ma lo sguardo di Mrs. Garth ora venne attratto dal marito, che era già immerso nella lettura della lettera. Il suo volto aveva assunto un'espressione di seria sorpresa che l'allarmò un poco, ma egli non voleva essere interrogato quando stava leggendo e lei restò a guardarlo ansiosa, finché lo vide improvvisamente scosso da una risatina gioiosa mentre ricominciava a leggere la lettera e e alzati gli occhi al di sopra degli occhiali, disse in tono sommesso: «Cosa ne dici, Susan?» Essa si alzò e gli si mise dietro, appoggiandogli la mano sulla spalla, mentre leggevano insieme la lettera. Proveniva da Sir James Chatham e offriva a Mr. Garth la conduzione delle tenute di famiglia a Freshitt e altrove, e aggiungeva che Mr. Brooke di Tipton aveva chiesto a Sir James di verificare se Mr. Gare sarebbe stato disposto anche a tornare a fare il suo amministratore per la proprietà di Tipton. Il baronetto aggiungeva, con parole molto cortesi, che lui stesso era particolarmente desideroso di vedere le tenute di Freshitt e Tipton amministrate dalla stessa persona e sperava di poter mostrare che i due incarichi potevano essere ricoperti a condizioni vantaggiose per Mr. Gare, che egli sarebbe stato lieto di incontrare al palazzo alle 12 del giorno successivo. «Una bellissima lettera, non è vero, Susan?» disse Caleb, volgendo gli occhi in alto alla volta della moglie, la quale sollevò la mano dalle spalle all'orecchio, mentre continuava a restare con il mento appoggiato alla testa di lui. «Brooke non ha voluto chiedermelo di persona, vedo», egli continuò ridendo silenziosamente. «Ecco un onore per vostro padre, figlioli», disse Mrs. Gers, volgendo lo sguardo alle 5 paia di occhi tutti fissi sui genitori. Gli viene chiesto di riprendere un lavoro da quelli che lo avevano licenziato tempo fa. Questo dimostra che ha fatto bene il suo lavoro, al punto che sentono bisogno di lui. Come si è insinnato? Urrà! Esclamò Ben a cavalcioni della propria sedia, con la gradevole fiducia che ci fosse un rilassamento della disciplina. Verranno a prenderlo, mamma? Chiese Letty, pensando al sindaco e alla municipalità in toga. Mrs. Gerst accarezzò con qualche colpetto il capo di Letty e sorrise, ma alla vista del marito che raccoglieva le sue lettere, che probabilmente sarebbe stato ben presto fuori dalla loro portata, in quel santuario degli affari, gli strinse la spalla e disse con una certa energia: «Ora ricordati di chiedere una buona paga, Caleb». «Oh sì», disse Caleb con una voce profonda di assenso, come se fosse stata un'assurdità aspettarsi una cosa diversa da lui. «Saranno fra le 4 e le 500 sterline fra tutti e due». Poi, come colpito da un ricordo, disse: «Mary, scrivi di rinunciare a quella scuola. Resta ad aiutare tua madre. Sono allegro come Pulcinella adesso che ci ho pensato». Nessuno avrebbe potuto assomigliare a Pulcinella trionfante meno di Caleb, ma la sua abilità non consisteva nel trovare frasi adatte, sebbene ci tenesse molto a scrivere delle belle lettere e considerasse la moglie una miniera di linguaggio corretto. A questo punto scoppiò quasi un tumulto fra i bambini e Mary, con viso supplichevole, allungò il ricamo della batista alla madre perché lo riponesse via, mentre i ragazzi la trascinavano in una danza. Mrs. Gers, piena di una placida gioia, cominciò a raccogliere i piatti e le tazze. Intanto Caleb, spinta indietro la sedia dal tavolo, come se avesse intenzione di andare alla scrivania, continuò a restare seduto, reggendo in mano le lettere e guardando a terra con aria meditativa, mentre stendeva le dita della mano sinistra, secondo il linguaggio muto tutto suo. Infine disse: «È davvero un peccato che Christie non si sia dedicato agli affari, Susan. Avrò bisogno di un aiuto fra poco e Alfred deve andare a fare il suo apprendistato. Su questo ho deciso». Sprofondò di nuovo nella meditazione e nella retorica delle dita e poi proseguì: «Indurrò Brooke a fare dei nuovi accordi con gli affittuari e farò un piano per la rotazione dei raccolti. E scommetto che potremo fare dei bei mattoni con l'argilla a Bottom's Corner. Devo studiare la cosa. Ridurrebbe il costo delle ripartizioni. È un bel lavoro, Susan. Uno senza famiglia sarebbe contento di farlo per niente». «Bada di non farlo tu, però», disse la moglie levando il dito. «No, no, ma è una fortuna che capiti a uno che ha visto come funzionano gli affari, avere la possibilità di mettere in sesto un angolino del paese, come dicono, e indirizzare gli agricoltori per la giusta via, e riuscire a fare qualche buona riparazione e costruire qualche edificio solido, perché quelli che ci vivono e quelli che verranno dopo stiano meglio. Preferirei un lavoro del genere a un patrimonio. Lo considero il lavoro più onorevole che ci sia». A questo punto Caleb posò le lettere, si cacciò le dita fra i bottoni del panciotto e restò seduto con la schiena dritta, ma ben presto, con una certa soggezione nella voce e muovendo lentamente il capo di fianco, continuò: «È un gran dono di Dio, Susan». «Questo sì, Caleb», disse la moglie con pari fervore, «e sarà una benedizione per i tuoi figli aver avuto un padre che ha compiuto un simile lavoro, un padre alle cui buone opere Resteranno anche se il suo nome potrà essere dimenticato. Allora, non poté più parlargli della paga.